fatte. Non so perché tu assì. Vede che era tutto libero di una spazia. Pare che tutto è cool. Porque tú has...